X24, i gialli della storia. Mi disse: sai Bruno, ho tra le mani una cosa che può fare esplodere l'Italia. Dalle battute iniziali vi furono tanti depistaggi. Forse, per come poi sappiamo, o anche con intervento di servizi segreti. Molteplici coperture, vari ostacoli. E sicuramente grossi interessi politici. Dietro la sparizione di Mauro De Mauro, giornalista di punta del quotidiano L'Ora di Palermo, c'è un intrigo e un mistero. Questo non è il solito caso di lupara bianca, ma è piuttosto un giallo. Un giallo che si snoda in parecchi decenni e che tocca alcuni dei più inquietanti misteri d'Italia, e il protagonista è lui, Mauro De Mauro, che è sempre in prima linea contro la mafia. Noi oggi a Mix24 raccontiamo questa storia con la testimonianza di colleghi, amici, magistrati, la moglie e la figlia. In quello scorcio d'estate del 1970, però, dopo tante inchieste sulla criminalità, De Mauro non si occupa più di mafia. Da qualche mese è passato allo sport. Pur essendo il capo dello sport, che era un settore che in quel momento andava rilanciato, continuò a occuparsi anche di altro. Lui, a titolo personale, continuava sempre a lavorare, a fare inchieste, a fare ricerche. Mi disse: sai Bruno, ho tra le mani una cosa che può fare esplodere l'Italia. Era venuto a prendermi all'aeroporto, mi ha detto: cioè, sai Franca, sono contenta che sei tornato, sono preoccupato, sto facendo un lavoro, ho scoperto delle cose brutte. Mi fece capire che ai vertici politici finanziari italiani era un brutto ambiente. Dice: ho scoperto una cosa terribile. E gli ho chiesto: che cosa? Cioè, no, non le voglio parlare, mi preoccupa troppo e non voglio che tu ne sia coinvolta. E non vedo l'ora comunque che venga tua madre, perché lei è forte e io mi sento più sicuro quando c'è lei. Che cosa ha scoperto Mauro De Mauro? Qual è lo scoop che ha per le mani? E perché pensa si tratti di una rivelazione che può fare esplodere l'Italia? Il 16 settembre è un mercoledì. Mauro De Mauro esce dal giornale. Mancano pochi minuti alle 9. E come spesso avveniva in quel periodo, lui mi dà un passaggio in macchina. Io non avevo la macchina, abitavo, diciamo, lungo la strada che lui comunque faceva per rientrare in Viale delle Magnolie, dove abitava. Siamo arrivati fino a sotto casa mia, ci siamo fermati qualche minuto a chiacchierare sull'indomani, sul programma dei lavori dell'indomani, perché lavoravamo assieme, e dopodiché mi ha salutato, mi ha detto che andava a casa. Poi, andando a casa, si è fermato in un bar a comprare il famoso pacchetto di caffè. Io ho visto mio marito tornare, tant'è vero che gli facevo segno dove poteva posteggiare, che era libero insomma il posteggio. Ero uscita con l'allora mio fidanzato, stavamo tornando verso casa, abbiamo posteggiato e mentre ci avvicinavamo, arrivavamo al cancello, al portone, abbiamo visto venire arrivare la macchina di mio padre. Io mi sono fermata un minuto, poi ho detto: no, andiamo a chiamare l'ascensore, così quando papà viene saliamo tutti e tre direttamente. Papà non veniva, allora sono uscita di nuovo fuori per vedere come mai ritardasse. C'era questa macchina, questi due, ho fatto salire in macchina. E ho visto la macchina di papà che ripartiva con lui al volante, con lo sguardo molto teso, duro, guardava dritto davanti a sé, come se volesse tenermi da parte. Diceva: papà, dove va? Ma si vede che è arrivato qualche cosa, qualche notizia da dare. Deve intervenire per qualcosa, così il giornale. Tant'è che ho chiuso a chiave la porta e ho detto alle bambine, mia figlia. Dice: ma non, come fa a entrare papà se lo lasciamo fuori così? E io ho aspettato tutta la notte, la mattina. Ho chiamato presto il giornale e ho fatto ha pregato insomma di aiutarlo, loro stessi hanno fatto il giro degli ospedali, della polizia, dei carabinieri per vedere se era successo qualche cosa. Niente, come se non fosse mai esistito. 24 ore dopo, a Via D'Asaro, a metà strada tra la redazione dell'Ora e la casa del giornalista, viene ritrovata la macchina di Mauro De Mauro. Battute, perlustrazioni, blocchi stradali. Polizia e carabinieri setacciano Palermo alla ricerca di Mauro De Mauro. Squadra mobile con Boris Giuliano e Bruno Contrada e carabinieri con l'allora colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa battono anche le campagne. Niente, Mauro De Mauro non si trova. C'entra la mafia? Non si sa. 8 giorni dopo il sequestro, il giornale L'Ora titola a tutta pagina «Aiutateci». 2 giorni dopo, in redazione, arriva una busta con dentro un frammento di nastro inciso. Visto l'ore vivo, noi gli facciamo del male, imperiamo che chiederà di meno. La voce è di mia marita. Le ricerche di Mauro De Mauro proseguono senza sosta, posti di blocco dentro e fuori la città, centinaia di perquisizioni, ricerca di possibili testimoni, ma senza nessun risultato. Polizia e carabinieri allora frugano anche nella vita privata di De Mauro, studiano il suo passato nella Roma occupata dai tedeschi e nella decima MAS di Giunio Valerio Borghese, dove De Mauro si era arruolato. Processato per collaborazionismo con i nazisti, De Mauro è stato assolto e da 11 anni lavora in un giornale vicino al Partito Comunista. Gli inquirenti scoprono subito che De Mauro si stava occupando di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI morto a Bascapè 8 anni prima, nel 1962. Non è un'inchiesta per il giornale. L'incarico gliel'ha affidato il regista Francesco Rosi, che sta preparando un film. L'incarico era quello di raccogliere quanto più materiale possibile i movimenti di Mattei, pezzi di dialogo, gli incontri che aveva avuto durante le 2 ultime giornate passate da Mattei in Sicilia. Stavamo mangiando e papà disse a tavola: ho scoperto chi ha fatto fuori il presidente. Mamma andava in cucina, io sparecchiavo. Iuni ha chiesto: quale presidente? E mamma, mi pare mamma, gli ha detto: sai, un pochettino come Kennedy, morto Kennedy è salito Johnson, e quindi morto Mattei sale Cefis. In realtà il nome di Eugenio Cefis, successore di Enrico Mattei all'ENI, non figurerà mai in nessuna inchiesta relativa all'incidente di Bascapè. Al contrario, il 17 marzo del 2004, archiviando definitivamente il caso, il GIP di Pavia, Lambertucci, scrive che non sussiste nessun elemento che leghi Cefis alla morte di Mattei. Nessuno, purtroppo, sa di quali elementi concreti se li aveva disponesse De Mauro. Quello che è certo è che nelle ore immediatamente precedenti alla sua scomparsa, De Mauro lavora con grande concentrazione su una serie di nastri registrati. Qui cosa ci poteva essere che De Mauro avrebbe potuto scoprire? L'esecutore materiale della manomissione dell'aereo, che poteva essere un mafioso, perché un'azione di questo genere solo la mafia la poteva realizzare. Anche la polizia sembra esserne convinta. Quella dell'incidente a Mattei può essere la pista giusta da seguire per capire la scomparsa di De Mauro. Forse in quei nastri che De Mauro ascoltava e riascoltava prima di scomparire c'era qualche elemento decisivo sulle ultime ore del presidente dell'ENI in Sicilia. Intanto si viene a sapere che un mese prima della scomparsa De Mauro ha preannunciato a Bruno Carbone, il collega con cui divide la stanza, uno scoop eccezionale, senza però aggiungere altro. Gli ho detto: guarda Mauro, nel nostro lavoro, e specialmente in Sicilia, chi sa qualcosa di pericoloso deve dirla agli altri, deve informare più gente possibile, perché diversamente rischia di morire. Adesso scendi le scale, fai quanto saranno 200 metri e vai a Palazzo di Giustizia. C'è il procuratore Scaglione, che è un procuratore della Repubblica segretissimo, cioè a lui puoi affidare questo segreto. Al ritorno mi disse: sai che sono contento di aver fatto quello che mi hai detto? Mi ci sono più tranquillo. Pietro Scaglione, procuratore capo di Palermo, viene ucciso insieme all'autista Antonio Lorusso il 5 maggio del 71. È il primo magistrato a cadere per mano della mafia. Ma torniamo al giallo di De Mauro. La pista, Mattei, sembra essere la più convincente. Poi però, d'improvviso, polizia e carabinieri si dividono. Verso la metà di ottobre, circa, i carabinieri si allontanarono da noi. E noi della polizia, della squadra mobile. E venimmo a sapere che loro seguivano un'altra pista, seguivano un'altra strada. E poi venimmo a sapere che inquadravano la sparizione e il successivo omicidio di Mauro De Mauro in una vicenda di traffico internazionale di droga. Il problema del coordinamento tra polizia e carabinieri è un problema, direi, eterno in Italia. In quel periodo e in quel caso fu abbastanza eclatante, nel senso che andavano per piste totalmente diverse, in modo del tutto autonomo, e quasi quasi l'uno danneggiando gli altri. Perché i carabinieri hanno tirato fuori la pista del traffico di stupefacenti? Perché d'improvviso sembrano dubitare della pista Mattei? Perché qualcuno parla di un depistaggio? Mentre la scomparsa di Mauro De Mauro diventa un giallo sempre più complicato, per sua moglie e le sue figlie resta l'angoscia di un'attesa senza fine. Intanto compare sulla scena il ragionier Buttafuoco, commercialista palermitano molto noto in città. Personaggio eccentrico, sempre molto elegante, con cappello e bastone gira per la città in carrozzella e si offre di aiutare la famiglia De Mauro. Lui era il commercialista della Palermo Bene. Bene e male. Era anche il nostro, cioè di mio marito. Mi telefono da sotto casa, verso mezzanotte, c'era Giuliano, Contrada, credo è mio cognato anche. Porto notizie e non ho consolazione. Non vengo per consolare, ma per... Hanno cercato di capire cosa sapessimo noi, prima ancora che i giornali avessero pubblicato la notizia. Quei casi in cui dice, ma c'è, non c'è da busta, qualche lettera, da busta gialla, di quelle commerciali. Oh, c'era lì. Era, o forse l'aveva vista, che adesso. E noi come fessi? Alcuni suoi comportamenti dimostrano che Buttafuoco era stato mandato da qualcuno a controllare, tra virgolette, le mosse della famiglia. Soltanto alcuni giorni dopo, quando risultò chiaro che non era venuto per portare notizie ma per prenderne alla famiglia, venne accompagnato alla porta e subito dopo venne arrestato. Il cavaliere Antonino Buttafuoco viene arrestato il 19 ottobre del 70 per concorso in sequestro di persona. Dalla scomparsa di De Mauro è passato poco più di un mese. Ma chi ha mandato Buttafuoco a casa De Mauro? Perché Buttafuoco, parlando con la moglie e le figlie di De Mauro, sembrava così interessato al caso Mattei? Chiuso al Luciardone, Antonino Buttafuoco non apre bocca. Intanto sui giornali che seguono la vicenda spuntano altri due nomi eccellenti, entrambi legati a Leni: Graziano Verzotto, ex senatore democristiano, e Vito Guarrasi, avvocato molto influente in Sicilia. Pochi giorni prima della sua scomparsa De Mauro aveva incontrato sia Verzotto che Guarrasi. L'avvocato Vito Guarrasi è un personaggio molto centrale in questa storia del sequestro di Mauro De Mauro, perché a un certo punto, nell'immediatezza delle indagini, trattando la pista Mattei, la polizia lo indagò indicandolo come il Mister X, come il famoso Mister X che avrebbe in qualche modo deciso la fine di Mauro De Mauro. A Palermo c'è frenesia. La polizia sembra pronta ad arrestare Mister X, il mandante del sequestro De Mauro. E invece non è così. Improvvisamente le indagini si sono arenate, bloccate completamente. venimmo a sapere dopo, molto dopo, che ci sarebbe, c'è stata una riunione a Villa Bosco Grande in cui i servizi segreti con il questore e la polizia che indagava sulla pista Mattei avrebbe lanciato la parola d'ordine annacquare, annacquare e indebolire le indagini. A sorpresa nel 1998, cioè quasi 30 anni dopo la scomparsa di De Mauro, a rivelare il ruolo dei servizi segreti in questa vicenda è Ugo Saito, il primo magistrato a condurre le indagini. Il giudice viene interrogato a Pavia, dove nel 94 è stata riaperta l'inchiesta sulla morte di Enrico Mattei e dove si torna a parlare del caso De Mauro. Cosa diceva Saito in un verbale che è agli atti del processo? Dice che in sostanza a un certo punto non riceve più nessun aggiornamento delle indagini da parte della squadra mobile, racconta di avere incontrato in tribunale Boris Giuliano e di avergli chiesto come mai questo blackout sulle indagini, e che Giuliano gli avrebbe risposto con molta sincerità ma anche con molta amarezza che c'era un ordine di scuderia di non indagare più su Mauro De Mauro, un ordine di scuderia che sarebbe venuto da Roma, quindi dai servizi segreti, addirittura con un inviato che a Palermo tenne una riunione per comunicare a tutti quelli che si occupavano di questa indagine che non se ne dovevano più occupare. Mi sembra che ci sia stata un po' una carneficina e tante persone che giravano, che si sono occupati del caso del rapimento di mio padre, ora non ci sono più, Boris Giuliano, dico, per esempio, lo stesso dalla Chiesa. Scaglione, mentre va a Camposanto, Terranova, è stato ucciso, Costa, procuratore Costa, colonnello Russo, Giuliano, sotto casa, sparato in faccia. Intanto l'indagine sembra essere finita nel nulla, il cavalier Buttafuoco viene scarcerato e prosciolto, quanto a Guarrasi e Verzotto i loro nomi non figureranno mai tra gli indagati. Poi nel 2001 un colpo di scena, un pentito di mafia, Francesco Di Carlo, dice di sapere come e perché De Mauro è stato ucciso. Le sue rivelazioni e le carte di Pavia, nel frattempo inviate alla Procura di Palermo, portano alla riapertura dell'inchiesta sulla scomparsa del giornalista e a un nuovo processo. Secondo Di Carlo, il caso Mattei non c'entra niente. Il vero movente sarebbe infatti il golpe borghese. E dunque, d'improvviso, nella storia di De Mauro, torna l'ombra del suo passato di repubblichino della decima massa. E questa vicenda si lega a uno dei grandi misteri d'Italia. Di Carlo ha rivelato, che ed è agli atti del processo, che Mauro De Mauro fu assassinato perché aveva scoperto che c'era un progetto di colpo di Stato organizzato dal principe Nero, ossia Junio Valerio Borghese, comandante della decima massa, della quale Mauro De Mauro era uno degli esponenti di spicco della decima massa. Un golpe al quale doveva partecipare attivamente anche Cosa Nostra. E questa circostanza è stata confermata, sia pure involontariamente, anche da Luciano Ligio, il capo dei Corleonesi, che durante un'udienza del maxi processo, durante un confronto con il pentito storico di Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, per tentare di coglierlo in castagna, di metterlo in difficoltà, disse ai giudici: il signor Buscetta perché non parla dei suoi incontri con me e con gli altri, che voleva convincerci a partecipare ad un colpo di Stato con Junio Valerio Borghese? Pensava in quel momento Luciano Ligio di mettere in difficoltà Buscetta. Buscetta gli rispose per le rime, soprattutto perché le dichiarazioni di Buscetta su questo argomento, cioè sulla partecipazione degli uomini d'onore al golpe, le aveva già fatte, quindi erano dichiarazioni già trascritte ma non erano state rese ancora note. Il giornalista, sostiene Di Carlo, fu portato in una masseria a Santa Maria del Gesù, una borgata vicina al fiume Oreto. Lì, ai piedi di Monte Grifone, De Mauro sarebbe stato torturato e interrogato per sapere a chi aveva confidato il suo segreto. Poi qualcuno gli sarebbe scivolato alle spalle e lo avrebbe strangolato. Il corpo di Mauro De Mauro, dice di Carlo, e lo confermano altri pentiti, fu sepolto lungo il letto del fiume, in fondo alla gola. Io non penso che tutti questi abbiano detto bugie oppure abbiano tentato di depistare le indagini. Io penso che, essendo il delitto di Mauro De Mauro una storia che è mafiosa, ma è soprattutto, diciamo, legata alle deviazioni istituzionali che hanno attraversato la storia della Sicilia, e mi riferisco soprattutto ai servizi segreti che si sono occupati di mafia e della lotta alla mafia, qualche volta, come dire, essendo utili, molte altre volte depistando le indagini. Dicevo che è probabile che proprio per la natura del delitto gli uomini d'onore di Cosa Nostra all'epoca non abbiano saputo esattamente le cose come sono andate. Quello che hanno raccontato è quello che hanno ascoltato, che sono riusciti a sapere all'interno di Cosa Nostra. Ciò non vuol dire che sia la verità. Ma allora, cosa è successo davvero a Mauro De Mauro? E perché è stato ucciso? Intanto, quello di De Mauro resta un enigma senza fine, dove non è solo la mafia a giocare un ruolo da protagonista. Beh, De Mauro era sicuramente un giornalista scomodo, ma non tutti i giornalisti scomodi vengono uccisi. Così come molti magistrati sono scomodi, non tutti i magistrati vengono condannati a morte dalla mafia. Ora, in quell'ultimo periodo De Mauro era diventato pericoloso per varie ragioni. Si stava occupando di Mattei e per questo era comunque potenzialmente pericoloso, perché poteva scoprire che quello di Mattei non era stato un incidente, ma era stato un omicidio, ed era stato un omicidio nel quale la mafia probabilmente aveva messo lo zampino. E contemporaneamente, secondo le nostre risultanze, si è imbattuto anche nella notizia del golpe borghese che stava per essere messo in atto e rispetto alla quale la mafia aveva avuto un ruolo. Ecco, quindi si determina il cortocircuito, e da questo cortocircuito la condanna a morte. Quest'ultima considerazione era del magistrato Antonio Ingroia. Per la scomparsa di Mauro De Mauro finisce sul banco degli imputati solo Totorina, ma al processo alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo Riina viene assolto da ogni accusa e il 4 giugno del 2015 anche la Cassazione conferma l'assoluzione. Per il rapimento e l'uccisione di Mauro De Mauro non sono stati identificati con chiarezza né esecutori né mandanti.